sento penare, ma non vuoi parlare di me, non ti fidi o non lo vuoi fare? Tra tutta la gente che schiaccia bottoni di morte, non riesci a respirare. Ti prego, regalami un giorno, un poco di tempo e mi levo di torno. Sei così bella, ti voglio salvare, guardare, ammirare volandoti attorno. Gaia, madre benevola, scusa di quest'anno, anche se dicono tanto in fondo, loro non sanno quello che fanno, lo capiranno quando alla fine t'avranno ridotto all'osso. E con un tremore del cuore, una mano sugli occhi, te li sarai scrollati di dosso. Hai dato tanto, pianto, e nessuno si riputa un santo. Voglio vederti di nuovo sorridere, amore, ci provo con questo mio canto. Le volte che hai mai riscaldato la notte coprendomi con il tuo manto. Divento che soffia leggera, prendomi il cuore come d'incanto. Fatti toccare di nuovo, ti voglio scaldare, almeno ci provo. Con gli elementi ci hai dato la vita, ma c'è chi la vita la butta in un rovo. Vengo vestito di nuovo, dove sto solo il colore di giallo. Tu dammi gialla, tu la più bella di tutti i pianeti presenti a sto ballo. Lo so, t'hanno fatto del male, io sono qui per non farti crollare. Vivo per te, tu vivi per me, abbiamo ancora tanto da dare. Fino alla fine del tempo che passa veloce, non ce ne accorgiamo. Il tempo di dirti quanto ti amo, il tempo di capire dove cazzo stiamo. Tienimi stretto accanto al tuo petto, ripetimi quello che hai detto. Metti la forza che hai messo finora nel vuoto di ogni mio concetto. Apri la mente alla gente che grida le nuvole invece di pensare. Ti amo di brutto, un pianeta fantastico, non mi lasciare. Tonnellate di olio combustibile, grandinata di oltre 6.000 corpi. Col passare dei giorni si fanno più cupi gli scenari. La plastica galleggia su 700.000 chilometri quadrati. A Faenza muoiono ben 400 tortoli. Le compagnie hanno risparmiato sul sistema di sicurezza. Una frequenza bassissima, in grado di creare danni alle forme di vita. Di plastica. Immane tragedia a Jetcorp. 21 dicembre 2012. Rimani a stupire col mare, con i tuoi monti da andare a scalare, le tue pianure distese tra i boschi nei quali i ragazzi ci vanno a fumare. La notte da vivere ancora, fino all'arrivo dell'ultima aurora, quando i maligni saranno cacciati all'inferno lontani nel giro di un'ora. Gaia, mante gigante, dove ogni posto è stupefacente. Gaia, la mente di un essere grande, dagli Appennini arrivare alle Ande. Anche se l'uomo diventa mutante, lei non lo tiene mai troppo distante. Lui le uccide a nome del contante, che la fa sentire come debole volante. E per ogni bomba che esplode, ogni creatura ammazzata per frode. Ogni persona sei ricca che povera, che vive Gaia però non ne gode. Si sentono troppi lamenti, e soprattutto se non te ne penti. Inutile stare a guardare in silenzio, ma poi digitare 3.000 commenti. Ti canto le rime più belle, accendi negli occhi la luce di stelle. Fai ancora battere il cuore ribelle di questo ragazzo che fugge le celle. Anima gli anni che restano da colorare su grigio di fondo. Chiedimi tutte se posso rispondo, ma non lo voglio un ennesimo mondo. Tonnellate di olio combustibile, grandinata di oltre 6.000 corpi. Col passare dei giorni si fanno più cupi gli scenari. La plastica galleggia su 700.000 chilometri quadrati. A Faenza muoiono ben 400 tortoli. Le compagnie hanno risparmiato sul sistema di sicurezza. Una frequenza bassissima, in grado di creare danni alle forme di vita. Di plastica. Immane tragedia a Jetcorp. 21 dicembre 2012.